Radio 24 Reportage. Europa Digitale. La musica guida la rivoluzione. Di Marta Cagnola. Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi. Canterà così l'Italia con Marco Mengoni il 18 maggio prossimo nella finale dell'Eurovision Song Contest, o Eurofestival come siamo stati abituati a chiamarlo per tanti anni. E questo verso di L'Essenziale, che ha già vinto il Festival di Sanremo, è un po' la metafora della musica oggi in Europa. Mentre il mondo cade a pezzi. L'economia, se non cade a pezzi, certo non gode di ottima salute, ma la musica sta componendo nuovi spazi, che sono quelli dell'industria digitale. Un nuovo mondo da reinventare. Enzo Mazza, presidente della FIMI, la Federazione dell'Industria Musicale Italiana. Il mercato europeo ovviamente è un mercato molto dinamico, un mercato che è guidato prevalentemente dalla grossa crescita che c'è sul digitale nel UK, che è da sempre uno dei principali mercati della musica a livello globale. Nel 2012 il UK ha superato la Germania come terzo mercato a livello globale, e quindi diciamo che l'Europa, benché ovviamente non abbia più quei numeri che aveva negli anni primi, fine anni 90, comunque ha generato un 4,1 miliardi di euro ancora di musica solo nel 2012. Sul digitale è cresciuto del 22% e diciamo complessivamente rappresenta l'Europa il 29% di tutti i ricavi a livello mondiale. Il digitale sta ridando vita a un mercato che in Europa resta però ancora molto frammentato. Diciamo che adesso il tema vero in Europa è quello di un mercato ancora abbastanza frammentato rispetto al mercato unico, chiamiamolo così, che è rappresentato dal mercato nordamericano, cioè il mercato americano statunitense è un mercato dove operano tutti i maggiori player della distribuzione digitale, dove operano tutte le maggiori imprese del settore musicale e operano ovviamente con una strategia univoca. In Europa ancora il tema della frammentazione, l'acquisizione dei diritti, le diverse presenze di società degli autori è uno degli elementi tra l'altro in discussione proprio adesso a Bruxelles su come favorire un vero mercato unico, benché bisogna anche dire che comunque oggi qualsiasi piattaforma in Europa, in qualsiasi paese, dispone di tutto il maggiore repertorio europeo ed internazionale, quindi io se cerco un artista italiano su una piattaforma danese o una piattaforma lituana lo trovo, quindi questo è un problema anche che in prospettiva andrà comunque risolto dal mercato. Anche perché, a differenza di quello che accade ad esempio per il mercato americano, noi non abbiamo una musica europea, alla fine ogni paese ha ancora delle sue abitudini nazionali. Beh, questo è uno degli aspetti positivi da sempre evidenziato, cioè la riserva culturale europea e quindi le grandi capacità di molti paesi di esprimere culture differenti, generi differenti, anche qualità talvolta che ha espansione poi sul piano globale. Pensiamo solo alla musica italiana. La musica italiana è uno dei repertori più forti in Europa, nel senso che nel nostro paese si vende molta più musica italiana di quella che è la musica internazionale, paragonata ad esempio ai mercati nordici dove prevale sempre la musica anglo-americana. Ed è un tema forte anche di prospettive sulle piattaforme digitali. Noi adesso abbiamo l'opportunità di esportare questa musica italiana ovunque, perché ovunque è presente. Se io vado su una piattaforma di iTunes in Cina e troverò i brani di artisti italiani così come li posso trovare nella piattaforma di iTunes in Cile. Il passaggio al digitale ha però portato con sé anche grosse difficoltà da superare. Olivier Regnier, direttore dell'Ufficio Europeo della Federazione Internazionale dell'Industria Fonografica, è membro del Consiglio Regionale Europeo. De manière générale, on n'est pas directement affecté par la crise économique. Dal punto di vista generale, non siamo direttamente colpiti dalla crisi economica, perché il mercato della musica ha subito una crisi negli ultimi 10 anni, quindi prima dell'inizio della crisi generale. La causa? La transizione del mercato fisico verso quello della rete. È stato molto difficile passare dal declino dei supporti fisici alla nascita del commercio online. Le marché digital, donc le marché en ligne. Ci siamo resi conto, in particolare, che una buona parte del mercato della musica è evaporato perché gran parte della musica circola in rete illegalmente, quindi senza pagare creatori e produttori. Ora stiamo recuperando attraverso maggiori servizi in linea e più consumo legale di prima. Nascita di servizi legali di acquisto e di piattaforme di streaming come Spotify o Deezer, una maggiore presa di coscienza dell'importanza di favorire il consumo legale di musica, ma anche, inevitabilmente, la lotta alla pirateria, con una normativa europea, ma quali applicazioni nei diversi stati? C'est une bonne question parce qu'effectivement des mesures qui devraient s'appliquer dans tous les pays. È una buona domanda, perché effettivamente sono misure che dovrebbero essere applicate in tutti i paesi. Ci sono dei regolamenti europei che sono gli stessi per tutti. Ma ciò che è ancora complicato è che quando dei servizi sono dichiarati illegali in un paese, come ad esempio Pirate Bay, anche se è stato riconosciuto illegale in Svezia, bisogna continuare a portare avanti delle azioni giudiziarie in ogni paese europeo. Non c'è ancora riconoscimento attraverso l'Europa del fatto che alcune piattaforme sono illegali. Questo manca ancora. Dobbiamo ancora lavorare paese per paese per chiudere alcune piattaforme. È una cosa molto complicata. In Italia siamo ad esempio abituati a ritenere che la Francia sia uno dei paesi con la legislazione più avanzata, ma è davvero così? De manière générale, la France est sans doute le pays d'Europe qui défend le plus et le mieux sa culture. La Francia, da un punto di vista generale, è il paese che difende meglio e di più la sua cultura, che sia per difendere i suoi diritti o per proteggere il diritto d'autore. La Francia in tutta Europa è il paese più avanzato. Difende la sua cultura in modo convinto e deciso. Negli altri paesi varia molto. In Spagna c'è poco sostegno politico e molta poca applicazione della legislazione in fatto di diritto d'autore. In Italia on a une assez bonne législation et un relativement bon soutien. In Italia c'è una legislazione abbastanza buona e un sostegno piuttosto buono. Il problema è che le azioni giudiziarie hanno una portata limitata, costano care, richiedono molto tempo, quindi avremo bisogno di misure più rapide ed efficaci e per questo migliorare la legislazione europea, per avere un livello più alto di protezione che sia applicato in tutti i paesi. Quando si parla di cultura, di digitale e di Europa, si pensa subito all'agenda digitale europea. Ma cosa prevede l'agenda digitale per la musica? L'agenda digitale europea ha per obiettivo. L'agenda digitale europea ha come obiettivo di sviluppare i servizi attraverso la rete, in particolare i servizi culturali, i film, la musica, i libri. Nell'agenda digitale europea e nelle discussioni europee c'è stata una presa di coscienza del fatto che il settore della musica è molto avanzato in rete ed è un pioniere in materia di offerta legale su internet. Quello che si potrebbe migliorare nell'agenda digitale, e resta ancora un punto che deve essere discusso, è come migliorare ancora i servizi occupandosi ancora con più efficacia della lotta alla pirateria. Ci sono dibattiti pubblici a livello delle istituzioni europee, Parlamento e Commissione. Noi partecipiamo attivamente, incontriamo i responsabili, comunichiamo loro tutti gli aggiornamenti sullo sviluppo del mercato. Il dibattito ha fatto sì che le istituzioni europee conoscano sempre meglio i problemi del mercato in modo da risolverli insieme. Quindi c'è già una grande presa di coscienza della necessità di sviluppare i servizi legali e del fatto che in Europa abbiamo un enorme potenziale. Du fait qu'il y a un énorme potentiel en Europe. Sostengono gli eroi, se il gioco si fa duro da giocare. Ma torniamo al punto di partenza, al prossimo 18 maggio in Svezia, a Malmö, quando Marco Mengoni sfiderà gli altri esponenti dell'Eurovision. Ma come si sente il nostro Marco a rappresentare il tricolore? Un po' di paura, perché comunque un rappresentante solo che rappresenti una